Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Credimi, incassare subito fino al 99% delle tue fatture senza vincoli e burocrazia si può, anche prosoluto e senza notifica. Vai subito su credimi.com. Messaggio promozionale, fogli informativi su credimi.com. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Emergenza coronavirus in Francia, 11.000 casi al giorno, Madrid estende le restrizioni, l'India supera i 6 milioni di casi. Il maltempo colpisce mezza Italia, acqua alta a Venezia, allagamenti a Sarno, pioggia e vento anche nelle prossime ore. Messina, la procura apre un'inchiesta sulla morte del sottufficiale tuffatosi per salvare due ragazzini. Scuola, ecco la data per il concorso straordinario, si terrà il 22 ottobre, in palio 32.000 posti. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata che apriamo con il bilancio dei casi di coronavirus che continua a crescere nel mondo, stiamo quasi per toccare il traguardo macabro del milione di vittime. Cresce l'allarme in Europa, in particolare in Francia, dove ci sono oltre 11.000 casi al giorno, il 32% dei focolai sono registrati in scuole e università, timori anche in Spagna, dove a Madrid ci sono nuovi quartieri alle prese con restrizioni. È la Spagna il paese europeo dove si registrano più contagi e in queste ore si valutano nuovi provvedimenti. A Madrid da giorni teatro di proteste contro le restrizioni. Da mezzanotte nuove aree sono state sottoposte al divieto di movimento se non per motivi legati alla salute, al lavoro e allo studio. Una misura comunque più blanda di quanto richiesto dal governo. E da oggi si raccomanda a tutta la popolazione che risieda o meno in zone a rischio di evitare spostamenti inutili. Preoccupa anche la Francia, dove il 32% dei focolai si registra in scuole e università. A Marsiglia e nella sua regione sono scattate misure restrittive e anche Parigi in alcune zone si appresta da questa sera a rendere operative nuove misure. Nel resto del mondo critica la situazione in India, dove si registrano ormai 6 milioni di casi e quasi 100.000 vittime. In Russia 8.135 i casi nelle ultime 24 ore, il dato più alto dallo scorso 16 giugno. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E vediamo la situazione in Italia, dove nelle ultime 24 ore i contagi sono rimasti pressoché stabili. Negli stadi si va verso un 25% di presenza di pubblico, ma con step intermedi. È quanto ha fatto sapere a Radio Rai Luigi De Siervo, AD di Lega Calcio Serie A. Nello stadio, ha sottolineato De Siervo, ci sono grandi spazi all'aperto, possiamo distanziare le persone. Intanto un viaggiatore in mattinata è risultato positivo al test rapido a Milano Linate, pertanto non ha potuto imbarcarsi sul volo Covid-free di Alitalia diretto a Roma. L'uomo asintomatico è tornato a casa in isolamento. La sperimentazione dei voli Covid-free tra Milano e Roma è scattata il 17 settembre scorso. I viaggiatori possono salire a bordo solo se negativi. In lieve calo gli ultimi dati in Italia, che parlano di 1.766 nuovi casi, ma a fronte di 20.000 tamponi in meno, il ministro della Salute, Roberto Speranza, lancia un appello su Facebook. 1 milione di persone ha perso la vita per il Covid in tutto il mondo. È un numero impressionante, purtroppo ancora in crescita, scrive Speranza. Dobbiamo impegnare tutte le nostre energie per combattere il virus con comportamenti corretti, puntando sulla ricerca scientifica per cure e vaccini sicuri. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La procura di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, ha disposto l'autopsia sul corpo di Aurelio Vissalli, 40 anni, il sottufficiale della Capitaneria, morto annegando nel tentativo di salvare due ragazzini in mare a Milazzo. Sui fatti è stata anche aperta un'inchiesta per accertare come fosse stata organizzata quella operazione di salvataggio. Il maltempo intanto però continua a colpire in queste ore l'Italia in diverse zone con raffiche di vento, pioggia intensa, trombe d'aria e neve sui rilievi. Dopo un fine settimana segnato da fenomeni intensi soprattutto al centro-sud, raffiche di vento, pioggia intensa, trombe d'aria, neve sui rilievi, sono previste ancora precipitazioni in particolare nelle zone tirreniche. Oggi le piogge interesseranno soprattutto Sardegna, Lazio meridionale, Campania, Basilicata e Calabria. Intanto in Irpinia, nel Salernitano, aziende agricole in ginocchio per la quantità d'acqua in poco tempo, quasi un fenomeno tropicale, come spiega il direttore della Coldiretti Salerno, Vincenzo Stropiano. Partendo da quello che è l'agro nocerino sarnese, dove diversi allagamenti hanno creato difficoltà alle aziende proprio nella fase di trapianto delle colture invernali, che sono state completamente sommerse dall'esondazione dei canali e anche dal fiume Sarno, che in alcuni punti è esondato, ma anche in Costiera Amalfitana, dove delle piccole frane che hanno portato via terreno e terrazzamenti. L'acqua era necessaria, ma per un fenomeno così i danni saranno milioni di euro. Arriva in un momento critico perché ovviamente il Covid ha messo a dura prova la vita delle stesse aziende, ma soprattutto c'è stata anche un'annata particolarmente siccitosa. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora apriamo la pagina politica, innanzitutto con le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che parlando all'evento per i 100 anni di Confagricoltura ha intervenuto a proposito del Recovery Fund, ha detto: non siamo in ritardo con... Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta? Non la lascia più. Vai su aruba.it.